Scusa, se ti penso ancora. E se il mio cuore viaggia ancora sulla tua autostrada, la rabbia è ancora tanta. Ma fumo è quel che resta. So bene che è impossibile immaginarmi insieme a te, ma so anche che in quelle notti senza luce io sento ancora la tua voce. No, non c'è poesia d'amore che inizi senza il tuo nome. Io non sarò perfetto, ma stanotte in questo letto sento dentro questa lava che mi brucia ma non mi uccide. Spero fortifichi di più, qui ci vorresti tu. Purtroppo siamo fotografia strappata, ma che ha lasciato la scia di una vita che non riconosco più, di un uomo che l'amor non vuole più. No, non c'è poesia d'amore che inizi senza il tuo nome. Io sono stato vero fino in fondo, ma forse in questo mondo no, non serve proprio a niente. Se usi il cuore usi la mente, sai è passato tempo ma non sai quanto male fa. Ci vorresti tu. No, non c'è poesia d'amore che inizi senza il tuo nome. Io non sarò perfetto, ma stanotte in questo letto sento dentro questa lava che mi brucia ma non mi uccide. Spero fortifichi di più, ci vorresti tu.